Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Mattino di Alessandro Milan. C'è chi fa parte del problema, chi della soluzione, chi fa parte del paesaggio. Quello di Renzi, più che un viaggio, a me sembra una fuga, sinceramente. Utilizzerei la parola fuga, una fuga dalle responsabilità. E il PD, il suo partito, il partito che ha guidato, sostanzialmente imploso in questi ultimi giorni, e lui ha deciso di infischiarsene, di andarsene lontano dall'Italia, di andare in California. A me dispiace molto perché abbiamo fatto di tutto per evitare che chiunque se ne andasse, ma abbiamo avuto l'impressione che fosse un disegno già scritto, come scritto, ideato e prodotto da, in questo caso scritto, ideato e prodotto da Massimo D'Alema. Gentiloni deve aver paura di Renzi, non deve aver paura di Speranza. Speranza non farà mancare il suo sostegno al governo Gentiloni. Rispetto al Presidente del Consiglio, Gentiloni può stare sereno? Questa è una battuta, però è che se le rispondo sì si preoccupa. È una domanda quando senza risposta. Le elezioni sono previste nel febbraio del 18, punto. Se Gentiloni vorrà votare prima, lo deciderà lui, non altri. Yeah! Oh, che gran casino, signore. Evviva! Evviva! Signori, intanto è lunedì. Buongiorno Alessandro e buon lunedì. Vai di brutto che oggi si lavora. Yuppi! Ci sono 29 gradi a Perth, come ci fa sapere la nostra Chiara che ci ascolta. Ci saluta, anzi fatemi subito salutare Marione. Buongiorno. Ci saluta Attilio da... Trasforma scivolando il Milan in vantaggio. Vabbè. Ci saluta Attilio da Cipro. A Cipro, capito. Un riciclatore di aeroporto. No. Ma che cavolo dici? Ma che cavolo dici? Bruttina Cipro, tu Da Cipro è fantastica. Cipro, guarda qua, il numero 00357 e poi via. Bellissimo. Da Cipro è bellissimo. Non lo dare alle forze dell'ordine, no. Ne approfitterebbero. C'è Matteo, il tuo amico da Columbus, Ohio, 3 gradi. Oh. Guarda qua, 001614 e via, insomma. Columbus fa pure notte, diciamo, esatto. Ci sono 3 gradi a San Pellegrino Terme. Dobbiamo fare gli auguri di 50 anni a Valentino da Minerbe. Oggi compie 50 anni, evviva. Ebbene, a Milano ci sono 7 gradi e sulla mia fronte ce ne sono 37 e mezzo, ma questo è un dettaglio secondario. A Paese ci sono 5 gradi. Ci dice Anna. A Valencia, guarda qua, ci seguono da Valencia. Da Valencia. Vabbè, quelli sono spacciatori di droga leggera. Smettila, Enrico, da Valencia. Guarda qua, 0034. Anche da Madrid, 8 gradi. Madrid, 8. Salutiamo tutta la comunità dei latitanti, possiamo cominciare. Boh, adesso sì, va bene. Sono le 6:33 minuti. Devo salutare insieme a Marione Di Nolfi anche Carla Rocchi. Buongiorno Carla. Buongiorno cari, eccoci qua. Presidente dell'Ente Nazionale Protezione Animali. Oggi bisogna cara Carla, è pronta un po' a battagliare con Marione Di Nolfi, altro che di politica. Oggi dobbiamo parlare un po' di DJ Fabo. Dobbiamo un po' mettere all'angolo Marione. DJ Fabo è questo ragazzo, noi abbiamo intervistato anche la fidanzata un mese fa, che ha deciso di andare in Svizzera in una di queste associazioni, Dignitas si chiama una, che ti aiutano nel cosiddetto suicidio assistito. Dopo aver lanciato appelli all'Italia inutilmente ascoltato, dicendo voglio morire perché è rimasto tetraplegico, cieco, considera quella una non vita, e una non vita degna di essere vissuta. Dopo aver avuto una vita molto molto intensa, è in Svizzera, assistito da Marco Cappato dei Radicali, che l'ha portato lì. Allora, apriamo il Parlamento. Ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene, ma... Forza, ha fatto un video anche molto sofferto nella voce DJ Fabo. Il 13 giugno 2014 sono diventato cieco e tetraplegico. Questo era l'appello della fidanzata qualche tempo fa. Allora, Mariona Dinolfi, ma non vedo più. Sì. Che mi devi dire di questa scelta di libertà di DJ Fabo? Ma la storia è ovviamente estremamente tragica. Quello che mi intristisce molto è la strumentalizzazione a fini politici. DJ Fabo può andare solo in Svizzera, perché sì, in Svizzera c'è una legge, solo in Svizzera, che permette di suicidarti con un privato, perché la clinica che hai segnalato è in realtà un'associazione privata, sì, e per 18.000 euro ti fa una siringa di pentobarbitale e ti uccide. Questo è. Sì. Sì, c'è dentro anche il funerale, il viaggio, le visite mediche. Perfettamente, ok. Il principio attivo, sto a dire, il pentobarbitale costa 13 euro, quello che ti iniettano, ti danno dai 18.000 euro di ammazzare. Questa cosa è possibile solo in Svizzera, perché nel mondo civile, che vuol dire 200 e rotti paesi del mondo, questa cosa non si può fare. Ci sono paesi addirittura con l'eutanasia, proprio. No, appunto, attento, l'eutanasia è una cosa diversa. Infatti, qui c'è la soppressione di un disabile, che è una cosa completamente diversa dall'eutanasia. L'autosoppressione. Se anche tu andassi oggi in Olanda, dove c'è la legge sull'eutanasia, di Fabo non potrebbe essere soppresso. Perché qui stiamo parlando di suicidio assistito, che è un'altra cosa. La strumentalizzazione politica è far pensare agli italiani che stia in questo momento in discussione una legge, che in realtà è quello sul testamento biologico, tutta altra cosa ancora, che permetterebbe a DJ Fabo di fare quello che può andare a fare in questo realtà. Questo no, ma non è tanto la strumentalizzazione, che DJ Fabo ha fatto un appello, cioè dicendo se io voglio essere libero di poter fare delle scelte, perché cosa in Italia? La richiesta che viene strumentalizzata dall'associazione Luca Guccioni, cosa chiede? Una legge come la Svizzera? La legge come la Svizzera ce l'ha solo la Svizzera, su tutto il territorio mondiale. Perché? Forse l'idea di sopprimere i disabili è un filino pericoloso. Ma non è sopprimere i disabili, è lui che libera. Su 200 ordinamenti giuridici del mondo non esiste un ordinamento che ha quella normativa. Mario, non si sopprime un disabile, non si sopprime un disabile, è lui che liberamente, con una libera scelta, probabilmente c'è un pericolo nella normativa. Ma siamo d'accordo che è lui che è d'accordo a morire, cioè non è che lo uccidono, è lui che è d'accordo. È un suicidio, ma questa cosa, ripeto, nel mondo non ha pari, perché negli ordinamenti mondiali è ritenuto pericoloso. Guarda, io sono australiano, l'Australia l'ha introdotto nel 95, rimosse la legge nel 97 perché vide quali potevano essere le conseguenze di una situazione del genere. Ma a me sembra una cosa che invece dovere perché non c'è la legge, certo, per me è per una mancanza di civiltà, perché io sarei anche per l'eutanasia, quindi insomma è una cosa diversa, è una libera, certo. E il testamento biologico è una cosa diversa ancora che io sono per la libertà di scelta, tutto qua, però vorrei sentire Carla Rocchi su questo. Carla, che ne pensi? Che dire, chi ha visto quelle immagini, che ha sentito quelle parole, non può che avere un infinito rispetto per questa persona, un profondo disagio, chiamiamolo così, ma io userei altri termini, per un Parlamento che non riesce ad avviare disegni di legge e proposte di legge che sono fermi dal 2014 nelle rispettive commissioni. Uno scandalo del nostro sistema. Ricordiamoci che alle volte si legge sul giornale, no, accadrà questo, presentato disegno di legge, sì, non significa nulla, perché se la legge non viene approvata, presentare si può presentare qualunque cosa. Comunque è un Parlamento che si è occupato di cose che con i cittadini hanno poco poco o niente da spartire, e comunque in questa situazione una persona che vive in quel modo, che non è vita, che non è assolutamente vita, e che fa un appello e che dice lasciatemi andare, consentitemi di andare, e che è costretto a questo orrore, cioè trasferirsi. Una cosa diceva nel suo video: il diritto di morire a casa propria, questo è il vero scandalo. Se una persona se ne vuole andare, deve poterlo fare a casa propria. Ma infatti per me Mario, il vero scandalo è che lui debba sobbarcarsi questo tipo di viaggio per andare in Svizzera. Il tema vero, cioè, adesso, per carità, la questione è sul singolo caso, quindi siamo tutti coinvolti emotivamente. Il tema è: che legge volete? E qui è una questione seria. Io l'ho detto chiaramente. Che norma volete? È una cosa capziosa. Vogliamo che la gente possa decidere di te. Norma volete sull'onda di un caso emotivo? Che Io non sull'onda di nessun caso emotivo. Scrivetemi una legge, spiegate. Io dico perché questa legge non è in nessun ordinamento giuridico. Questo è un argomento capzioso. Non è un argomento capzioso. Mi dovete dire che legge volete. Perché se voi date a un sistema la possibilità di sopprimere con 13 euro invece che curare... Ma cosa significa sopprimere? Ma usiamo i termini. Ma sopprimere si suicida. Sembra che non sia d'accordo lui. Perché il primo anno sull'eutanasia in Olanda si fanno 60 interventi e nel 2016 se ne fanno 5.513? Sono 5.500 crediti. Sì, Marione, però tu continui a dire sopprimere come se lui non fosse d'accordo. È perfettamente cosciente, d'accordo, vuole porre fine alla propria vita, appunto. Io te l'ho detto, io sono per l'eutanasia. È una persona di decidere, è un argomento capzioso. Chi sente è un argomento concreto, perché nel 2001 in Olanda ne hanno ucciso 60, nel 2015 ne hanno messi di 5.513 e non erano casi di J. Fabbo. Se per dare un'interpretazione ci deve praticare così l'argomento non è capace. Ma non è un caso emotivo, ti ricordi la vicenda di Eluana che è ancora diversa. Papà di Eluana in claro rispetto a questo caso, rispetto sarà al caso tutto di Eluana. Diverso, non è... Ma guarda, io lo conosco benissimo. È esattamente uguale consentire alle persone di avere scelta e dignità, la sostanza è sempre quella. Poi se vogliamo ricamare, ricamiamo, che la mattina presto ci fa bene alla salute. Dovete fare la legge. Ho capito, ma la legge non si fa. Ma io te l'ho detto che norma vorrei, sarei per l'eutanasia, quindi cioè, più chiaro di così. Se tu mi dici questo, la legge sull'eutanasia, io rispondo, in Olanda accadono 60 casi il primo anno, 5.513 15 anni dopo. Come mai? Non lo so come mai. Forse perché la gente sa che c'è una legge e la utilizza. 513 casi di J. Fabbo, no, perché c'è gente che liberamente decide di porre fine alla propria vita, appunto. Una cultura completamente diversa rispetto al malato. Che deve essere curato, non soppresso. Ma cosa curato? Ma io se fossi la famiglia di DJ Fabio mi incazzerei proprio a sentire questo commento. Curato, questa persona è tetraplegico, cieco, disperato, vuole morire in casa sua, lo curiamo. Che cosa gli facciamo? Gli curiamo in raffreddore? Ma è ridicolo. Dai, è ridicolo. E voi usate il cavallo di Troia del Ma non è il cavallo di Troia. Ma non è il cavallo di Troia, Mario. Non è il cavallo di Troia. È che deve fare? Che legge volete? Dite una cosa a caso. Ma te l'ho detto, per l'eutanasia. Che legge volete? Vogliamo che la gente sia rispettata, vogliamo che il Parlamento si occupi di cose che hanno a che fare con le persone. Ma è molto chiaro. Inutili cavilli procedurali. Mario, una legge in cui uno, se è libero, se vuole porre fine alla propria vita, può porre fine alla Ma che ne sai come viene gestita la libertà di un malato? Ma se io a 30 anni prima dico fatemi l'eutanasia e dopo sto male con il medico, cambi idea. Nessuno ti sopprime, nessuno ti uccide se non lo vuoi. 20 giorni fa in Olanda, dove una donna è stata tenuta ferma dai figli mentre il medico gli praticava l'eutanasia contro il suo volere, che persino la commissione medica olandese, che non ha mai fatto ricorso alla magistratura, dopo andare gli altri alla magistratura. Allora tu che dici dice fa buon caso, mi prendi un caso estremo per dire vedi l'eutanasia è un mostro. 5.503. Sì, però tu che ci stai crei dicendo un meccanismo che permetta a un sistema che fa fatica coi soldi di scegliere se curare con soldi, una marea di soldi o comprimere. Mario, ma vedi che euro, ragioni, sceglie i 13 ragioni euro. Allo stesso modo, perché dici DJ Fabo è un caso, non usate il cavallo di Troia, e tu utilizzi un caso estremo in Olanda. Ma poi non sta sto caso, chi ne ha saputo niente di questo caso estremo? È certo, perché non leggete quello che fate. Certo, noi non leggiamo, invece leggiamo. Fate una ricerca. Scusate, Google esiste per tutti, amici miei. Va bene, ragazzi, c'è una cosa in cui io tra l'altro ho intervistato qualche mese fa Emilio Coveri di Exit Italia, che si occupa di portare anche, di aiutare le persone, mettere in contatto, non portare, mettere in contatto le persone che vogliono andare in Svizzera, e racconta tutta la procedura normata, codificata, oserei dire pulita, caro Mario, capisci? Pulita, cioè precisa, con delle norme, con visite in cui si accerta la volontà della persona, poi si fa un'altra visita in cui si riaccerta la volontà finale della persona, che liberamente dice sì o no. Emilio Coveri è lui, è andato una volta in Svizzera per porre fine ai suoi giorni e poi ha deciso, all'ultimo ha detto no, ho cambiato idea, è tornato in Italia. Cioè, così, liberamente, non è che... So che fa paura tutto questo, però questo è... Che poi sia un caso totalmente diverso dal caso di Luana Englaro, sono il primo a dirlo, Beppino, lo conosco molto bene, totalmente diverso. Luana Englaro non è suicidio assistito, è un'interruzione dell'alimentazione artificiale, è stata tutta una battaglia di altro tipo. Comunque dai, dobbiamo andare un attimo al traffico, poi rientriamo. Faircam Transport, puntuale ed efficiente nel rispetto dell'ambiente. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta... Che bravi ministri, rimandano tutto dopo le elezioni dell'anno prossimo, così sono cavoli del prossimo governo. Il paese va a rotoli e il PD pensa soltanto a fare il congresso. Viva l'Italia! Paghiamoli pure 15.000 euro al mese, questi fancazzisti autorizzati. I scissionisti li mandiamo sugli esopianeti, hanno il posto sicuro. Allora, caro Marione Adinolfi che combatti, cara Carla Rocchi, è stata la notte degli Oscar. Marione, ma tu quando sei a Las Vegas te freghi, che fai? Chi ha vinto miglior film? E guarda, qua c'è Marta Cagnola che te lo dice. Miglior film è stato è stata una roba clamorosa, hanno vinto in due, hanno vinto in tre, a un certo punto hanno vinto in quattro, cinque. Ha vinto tutti. C'erano tutti sul palco a un certo punto. Allora, che è successo, Marta? I poveri Warren Beatty e Faye Dunaway hanno avuto un po' di esitazione, tutti pensavano perché da vicino non ci vedono bene. Evidentemente forse avevano capito che c'era qualcosa di sbagliato nella busta, perché c'era scritto Emma Stone per La La Land. Emma Stone aveva vinto effettivamente l'Oscar come miglior attrice. Loro però dovevano annunciare il miglior film, quindi cosa hanno detto? La La Land. Salgono sul palco commossi i produttori di La La Land, cominciano a ringraziare, arriva il conduttore Jimmy Kimmel, che è un comico, e dice non è uno scherzo questa volta. E non ha vinto La La Land. Ci siamo sbagliati, ha vinto Moonlight, quindi sono saliti i produttori di Moonlight, i produttori di La La Land hanno dato la statuetta agli altri. Vabbè, è finito tutto. Capito, Marione? Non ci credo, gli americani ormai sono stato confusionato. Vabbè, l'unica cosa che mi fa piacere è quella boiata di La La Land. Eccolo lì. No, vabbè, però ne ha vinti 6. Ne ha vinti 6, quindi sono contenti lo stesso. Capito? Certo, è Emma Stone, miglior attrice con la S blinda. Vabbè, ho tutto a posto. Beh, insomma, corso di dizione magari. Marta, devi capire. È no, così, no, Maria ma, Dinolfi, ma posso capirlo. Sei svegliato nervoso per DJ la Fabo. La e allora è così. Non si può, ma l'hai visto? No, io no, ma Marta sicuramente. Marta l'avrà visto 50 volte. Io l'ho visto, ma mi piace essere controcorrente. Adesso invece è mainstream dire che La La Land era boiata. Quindi La La Land è straordinario. No, io sono molto contenta. Ne ha presi 6 solo di Oscar sulle 14 nomination. La solita domanda, l'Italia solita... in genere vanno a trovare quelli con settima generazione che hanno vinto qualcosa. E invece no, perché allora Fuoco a Mare si sapeva che non ce l'avrebbe fatta, perché ce n'erano un paio di altri molto forti, e infatti l'ha preso O.J. Made in America, questo documentario che dura 7 ore su O.J. Simpson. Però noi tifavamo moltissimo per il make-up di Suicide Squad, Alessandro Bertolazzi insieme a Giorgio Gregorini, insomma trucco e parrucco per dirla come la diciamo di solito. e ce lo siamo portato a casa. E Alessandro Bertolazzi è super simpatico. Noi abbiamo fatto il tifo per lui, l'abbiamo anche ospitato sabato in trasmissione. E quindi molto contenta per questo Oscar italiano, per fare un po' i campanilisti come al solito. Cara Carla Rocchi, abbiamo vinto Trucco e Parrucco quest'anno agli Oscar. Beh, ma difatti non c'è dubbio che i migliori Trucco e Parrucco del mondo siano di casa. E c'è una lunghissima tradizione di vittorie. Sembra ed è nel panorama una vittoria, chiamiamola tecnica in qualche modo, però è la testimonianza di una grandissima capacità artistico-artigianale delle nostre, dei nostri esperti. Dai, insomma, noi teniamo botta, direi, sempre, con continuità. Ci siamo portati a casa un Oscar. Marta, per concludere, c'è qualcos'altro da segnalare? Beh, doveva essere la grande serata contro Donald Trump. In tanti hanno così citato più o meno la politica di Trump nei discorsi. L'ha citata esplicitamente Asghar Farhadi, non presente. Ha vinto l'Oscar come miglior film straniero per Il cliente, però in protesta per il Muslim Ban non è arrivato, quindi ha fatto leggere una lettera. A un certo punto Jimmy Kimmel aveva twittato a Donald Trump: allora cosa ne dici, Donald? Io credo che in questo momento però Donald Trump stia abbastanza divertendo. Dormendo, no, divertendo. Perché diciamo, per come è finita. Ma sì, è uno che ha detto: io non sono stato eletto dalla stampa, quindi non è manco andato a incontrarla. Insomma, però ovviamente la battuta di oggi, tutti gli americani che scrivono: ah, forse c'era qualcosa di sbagliato anche nelle buste delle elezioni. Vabbè, battutona. Allora, grazie alla nostra Marta Cagnola, caro Marino Dinolfi. Allora, e Carla Rocchi, qui non abbiamo parlato di politica, ma ti pare, Mario, che la politica dovrebbe parlare invece del reddito di cittadinanza, lavoro di cittadinanza? Questa campagna elettorale permanente dovrebbe parlare di storie come quella di DJ Fabo, adesso al di là di come la pensi, cioè affrontare le cose che riguardano le persone comuni. La politica deve occuparsi di tante cose, insomma, sicuramente di quella vicenda, sicuramente di altre. Penso che discutere sul reddito di cittadinanza sia una cosa intelligente. Io sono contrario, per esempio parlo di reddito di maternità e sono convinto che sia quella la soluzione per il nostro paese, però insomma le discussioni sui macro temi che debbano esserci in politica, questo sia normale. Invece si scannano. Hai sentito Carla Rocchi? Ecco, Carla Rocchi è stata in Parlamento e quindi ci può spiegare quanto davvero Marione la pensa così. Marione pensa che sia una questione di poltrone, cioè la scissione per ottenere poi una rielezione, altrimenti questi, i vari Gotor, gli Stumpo, eccetera, ma chi li vota? Secondo me è anche una questione proprio di livori personali. Ma l'hai sentiti nelle interviste, Rocchi? L'hai sentiti? Certo che le ho sentite. Secondo me c'è di tutto in questo atteggiamento, perché è umano e politico che sia così. Ma d'altronde queste persone hanno avuto mai nemmeno una briciola dell'attenzione che chiedevano. Faccio un caso. Adesso Emiliano può piacere, non piacere, io non. Ma una persona, il governatore di una regione importante, che dica: io sono mesi che cerco di parlare col Presidente del Consiglio e non ho avuto neanche una risposta, neanche una telefonata. Questo è il senso delle... Poi non si dica: noi siamo qui, tendiamo le braccia. Ma anche lì però sei in Puglia, sei stato eletto peraltro in Puglia, ma perché non ci si accontenta di fare il proprio lavoro? Ma attenzione, qui questa telefonata, per quello che si legge, era la telefonata su una situazione da risolvere in Puglia di tipo economico imprenditoriale, per cui serviva un ok o comunque una comunicazione. Quindi ci dice c'è del livore, no? Dice Emiliano, secondo mi viene me contro, le cose non io succedono non mai parlo. Guardate non che fare una scissione non è mai una roba semplice, perché significa caricarsi sulle spalle un fardello, e poi qualcuno di loro sicuramente avrebbe trovato uno spazio. Mi direte che non ce ne sarà per tutti, ma non ce ne sarà per tutti nemmeno così, perché le forze piccole non riporteranno tutti in Parlamento. Però arriva un momento in cui uno dice: ma sai che c'è? Fa un po'. Intanto in tutto questo, caro Adinolfi, il buon Enrico Rossi di DP, ma vi rendete conto, hanno rifatto DP, ero alto così quando c'è la democrazia proletaria, hanno rifatto DP e non può essere fatto perché è già sotto copyright, quindi ancora dicono: ma appunto sto DP esiste, democratici e progressisti lo possono fare, democratici e progressisti o no? È depositato. Ma è depositato come democrazia proletaria? Cioè. No, è stato depositato da Renziani che prudenzialmente, sapendo di che passo è fatto l'essere umano, hanno detto all'inizio: depositiamo. Vabbè. Ma un gruppo calabrese si chiama Democrazia. Eppure sui giornali continuano, DP, li chiamano ma, DP. Ma basta DP. Che metti un'altra cosa sul simbolo, li chiami... Ma chiamalo DEP. Progressisti italiani. Democratici e progressisti, DEP. Via, dai, abbiamo dato una soluzione alle 6.54 del mattino. In tutto questo, Enrico Rossi, se siete pronti con le palette, canta, canta dagli amici di Radio Rock. Che cosa poteva utilizzare come canzone simbolo per partire con DP, la locomotiva? E la locomotiva sembrava fosse un mostro strano. Urca. Che l'uomo dominava con il pensiero e con la mano. Caccia miseria, ragazzi. Fuggendo si lasciava indietro distanze che sembravano infinite. Sembrava avesse dentro un potere tremendo, la stessa forza della dinamite. Marione, se si comincia così è una tragedia, dai. Canta malissimo, una storia dell'Ottocento, capito? Okay, senti un attimo, senti. Che forza avrà questo nuovo movimento fondato la da lei? La forza della dinamite. La forza, la vivacità, signor Rossi. Se l'inizio è questo, Carla Rocchi, che voto gli diamo di incoraggiamento? Professoressa Rocchi. Non classificato, guarda. Non classificato, perché se no saremmo crudeli. Ma uno dico, faccia quello che sa fare, no? Stomo saprà fare qualcosa se fa il governatore della terra. Ecco, vabbè, ho capito, canta. Quelli di Radio Rock ti mettono il microfono, dai, canti. E si sa che l'uomo è un po' vanesio e poi... E quello è il guaio. E quello è il guaio. L'uomo è un po' vanesio. Vabbè, Marione, che voto gli diamo di incoraggiamento? Guarda, io Radio Rock ho cantato One degli U2. E come è andata? Non era brutta. Si sa. Così, infatti è una persona seria, Rossi, mi piace molto, ma la rivoluzione socialista, la giustizia proletaria, la bandiera rossa, con Roberto Speranza, Cotor e Stumpo, avete un rete difficile. Vabbè. Staremo a vedere. Intanto alle 6.56 vi ringrazio, Mario Rinolfi, Carla Rocchi. E ovviamente, Mario, non abbiamo parlato di calcio, stiamo arrivando. Siamo lì. Ciao. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan, che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Signori, sono le 7:17 minuti, siamo qui con l'apertura della 200ª settimana decisiva per l'abolizione delle province. Ebbene sì, in questo lunedì è il giorno della 200ª settimana, non abbiamo portato la torta, Lorenzo Nespoli. Come no, non abbiamo preparato la torta, insomma, caro Peter Bescapè, non abbiamo preparato torte. È anche l'undicesima settimana decisiva per la riforma elettorale che si apre. E allora forza, andiamo nella lettura dei quotidiani, nello spazio dedicato alla rassegna stampa di 24 mattino, a capire che cosa ci offrono i giornali. Anche le proprie lunedì, no! In questo lunedì 27 febbraio, intanto i titoli, l'apertura del Sole 24 Ore, l'Unione Europea aiuti la sua industria e l'appello di 5 ministri, tra cui il ministro dello sviluppo economico Calenda, per un maggiore impegno di Bruxelles in difesa delle produzioni europee. L'apertura politica dedicata dal Corriere della Sera sul voto decide Gentiloni e l'intervista di Renzi, che ieri era Che tempo che fa, di Fabio Fazio, su Rai 3. E sul voto decide Gentiloni è il titolo di prima pagina del Corriere della Sera. Politica è anche l'apertura di Libero, ma sul centrodestra, ecco i sogni di Berlusconi. Silvio è certo che se scende in campo porta Forza Italia sopra il 20% e corteggia la Meloni per una coalizione insieme a Salvini. Invece l'economia, c'è l'intervista al presidente di Confindustria Boccia, è l'apertura del giorno. Boccia Italia, rischio stallo, il leader di Confindustria preme per le riforme e dice non toccate il Jobs Act. Poi l'apertura per molti quotidiani è anche la prima notizia da cui voglio partire. Si parla, per la verità, impropriamente di eutanasia, perché non è un caso di eutanasia ma di suicidio assistito, è una cosa ben diversa. Comunque la vicenda di DJ Fabo, che è andato in Svizzera, forse vi ricordate quando ospitammo la fidanzata qui in onda qualche tempo fa, è l'apertura per Repubblica: in Svizzera per l'eutanasia, vergogna, tradito dall'Italia. Così la stampa: via da un paese che mi tortura. Il Messaggero, eutanasia, si riapre il fronte. Il Giornale addirittura mette la vicenda DJ Fabo come Eluana, l'eutanasia rispacca il paese. In questo titolo ci sono almeno tre errori, sono due vicende completamente diverse, DJ Fabo e Eluana Englaro, e l'eutanasia appunto non c'entra granché. DJ Fabo, rifugiato politico, questo è il titolo invece del Fatto Quotidiano, titolo di prima pagina. E voglio proprio partire da questa vicenda di cronaca. Fabo nella clinica dei suicidi assistiti, questo è il titolo di pagina 2 del Corriere della Sera. È Alessandro Trocino che racconta: durante il viaggio non ha detto nulla, aveva solo fretta di arrivare. Marco Cappato è in Svizzera, vicino a Zurigo, ha accompagnato Fabiano Antoniani, noto come DJ Fabo, prima che un incidente stradale nel 2014 lo rendesse cieco e tetraplegico. Fabo ha fretta di morire, avrebbe voluto farlo in Italia, lo ha chiesto al Presidente della Repubblica. Poche ore prima della partenza ha registrato un video con Cappato dell'Associazione Luca Coscioni, 35 secondi dolorosi nei quali si vede Fabiano che parla con difficoltà, la testa adagiata su un cuscino a righe bianche e rosse. Accusa i politici di inerzia, è una vergogna che nessuno dei parlamentari abbia il coraggio di metter la faccia per una legge dedicata alle persone che soffrono e che non possono morire a casa propria. Fabiano, non confidando più nei politici, la sua vita l'ha messa nelle mani dei medici di Dignitas, clinica svizzera che aiuta a morire chi lo vuole. Si chiama appunto suicidio assistito. E i giornali ovviamente rilanciano il dibattito su questa vicenda, come avviene quando ci sono questi casi di cronaca. Per esempio il Corriere della Sera intervista, lo fa Gian Guido Vecchi a pagina 2, l'arcivescovo Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita: è una sconfitta amara per tutti, tutto ciò mi rattrista molto, deve rattristarci molto e anche interrogarci. Ogni volta che si pone termine a una vita o ci si propone di farlo è sempre una sconfitta amara, sia per chi dice non ce la faccio più, sia per una società che si rassegna all'impotenza. E cosa direbbe lei a Fabiano? Non esiste una tecnica, risponde Monsignor Paglia. Non è che possa arrivare io o chiunque altro a dire parole che cambiano la situazione. Magari ci riuscissi. La questione è più profonda. Madre Teresa diceva che la malattia del nostro tempo è la solitudine e la sola medicina è l'amore. Se la solitudine si aggiunge a una condizione particolarmente dolorosa, rischia di far diventare la vita insopportabile. Non sto parlando dei familiari, parlo della cultura di solitudine che inquida la società intera. Nessun uomo è un'isola, scriveva John Donne. Non dobbiamo dimenticare che la vita di ciascuno di noi è legata a quella degli altri. E ancora a Marco Cappato, che dice ciascuno possa scegliere per se stesso, risponde Monsignor Paglia: nella società iperindividualista c'è questa idea, tu decidi per conto tuo come ti pare. Con questa logica può accadere tutto. Allora ha ragione anche il ragazzo che si butta dalla finestra perché è stato bocciato. Il problema è far capire all'altro che lui per me è importante, è parte della mia vita e la sua morte mi dà un dolore enorme. Marco Cappato, tra l'altro, viene intervistato da Libero, da Antonella Luppoli, e racconta proprio dalla Svizzera, a pagina 11, di una situazione difficile, di sofferenza per la condizione fisica di DJ Fabo. Lo hanno raggiunto parenti e amici a un momento di sorrisi e ricordi, c'è però tensione perché ci sono ancora passi da compiere. Siamo arrivati in Svizzera nei giorni scorsi. Fabiano è stato sottoposto a una prima visita medica per controllare le sue condizioni fisiche e riaffermare eventualmente la volontà di ottenere l'assistenza medica alla morte volontaria. Potrebbe ovviamente cambiare idea, se lo facesse torneremmo a Milano senza alcun problema. Tutto ciò costa, fa sapere Cappato, circa 10.000 euro, perché per i cittadini esteri le visite non sono coperte dal Sistema Sanitario Nazionale Svizzero, e nel caso dovesse confermare la sua volontà azionerà con la bocca, l'unico organo che può muovere, l'unico, visto che è tetraplegico, con la bocca il pulsante di una macchinetta che gli farà ingerire il liquido. Morirà in pochi minuti senza sofferenze. e risponde in qualche modo Marco Cappato anche alla questione etica. Chi crede sostiene che la vita sia un dono di Dio. Ad essa è correlata però la libertà. E una vita imposta per forza non credo sia un dono. Si tratta di rispettare il libero arbitrio di una persona. Ma comunque la pensiate, il tema ovviamente c'è e la politica, come al solito, non se ne occupa. O quando se ne occupa non riesce ad arrivare a una soluzione condivisa. In tutto questo vogliamo parlare di altro. Voglio saltare a raccontare un argomento diverso. È un'intervista che c'è su Repubblica a Erika Di Martino. Chi è Erika Di Martino? Lei, con i suoi 5 figli, è la pioniera dei 1000 homeschooler d'Italia. Chi sono gli homeschooler? Quelli che non mandano i figli a scuola, ma li istruiscono a casa. È una tendenza che è cresciuta negli anni, all'inizio erano veramente pochi pionieri e ora invece sono appunto un migliaio in Italia. L'intervista è su Repubblica, l'intervista di Maria Novella De Luca la trovate a pagina 21. Io e i miei 5 figli ho una classe in casa, così diciamo basta a compiti e pagelle. Il segreto di Erika, lo ammette lei stessa, è la pazienza, altrimenti non avrei scelto di istruire tutti i miei figli in casa. Quando Matteo e io, cioè Matteo e il marito, abbiamo deciso di non mandare più a scuola Thomas, il primogenito, in Italia le famiglie che sceglievano l'educazione parentale erano pochissime. Oggi il Ministero ha censito oltre 1000 ragazzi che studiano a casa, ma di certo sono molti di più. Benvenuti dunque in un mondo dove non ci sono pagelle, non ci sono colloqui con i professori, non ci sono debiti, bocciature, dove il tempo è lento e la libertà assoluta. A settembre gli homeschooler celebrano la festa del non ritorno in classe. Poi ogni famiglia sceglie liberamente come istruire i propri figli. Erika Di Martino, 37 anni, italo-americana, ex insegnante d'inglese, autrice di 2 saggi sull'educazione parentale, è la guida di chi in Italia si incammina sulla strada controcorrente e discussa di non mandare i propri bambini a scuola. Intanto la prima domanda: ma è legale non mandare i figli a scuola? La Costituzione afferma che il dovere dei genitori è quello di dare un'istruzione ai figli, non di mandarli a scuola. L'importante però è inviare ogni anno una lettera alla propria scuola di riferimento in cui si comunica la scelta dell'educazione parentale. Poi se i ragazzi decidono di rientrare nell'istruzione statale, basta che facciano un esame da privatisti. Ma che vuol dire? Sono i genitori dunque a insegnare agli homeschooling? Ogni famiglia sceglie per sé. C'è chi si ispira al metodo Montessori, chi a Rudolf Steiner, chi segue i programmi ministeriali. Solitamente sono i genitori a fare da maestri, magari con l'aiuto di insegnanti esterni, magari papà o mamme di altri homeschooler, in una sorta di reciproco scambio di saperi. I miei bambini, ad esempio, studiano musica con musicisti e spagnolo con un tutor madrelingua. Noi utilizziamo tutto, libri, quaderni, computer, testi scolastici, materiale online. Io non sono affatto contrario alla tecnologia, i miei figli sono bilingue e fanno da piccolissimi, e fin da piccolissimi utilizzano PC e tablet, e poi viaggiamo, mostre, musei, gite. Come programma di geologia, l'anno scorso con altre famiglie di homeschooler siamo andati sull'Etna e i ragazzi hanno mostrato i loro lavori. Ma è dibattuto, è molto discusso questo sistema. Ma dice Erika Di Martino, chi critica il nostro mondo non ama la libertà. Va bene, siamo all'articolo che invece mi fa la giornata, l'articolo da Mani sul volante. Chissà se mi passa la febbre con questo articolo. Potrebbe essere una cura shock. Napoli, di mattina assenteisti, la notte falsari di lastre e tac. È sempre la vicenda raccontata da Leandro Del Gaudio sul Messaggero a pagina 17 relativa all'ospedale Loreto Mare. Non solo assenteismo, non solo i cosiddetti furbetti del cartellino. C'è di più. C'è dell'altro. Secondo quanto sta lentamente emergendo dopo l'ultimo scandalo nazionale, i carabinieri del NAS sono al lavoro da mesi. L'ultima ipotesi è chiara: a Loreto Mare ci sarebbe una sorta di fabbrica di TAC e documenti medici buoni da utilizzare soprattutto nelle truffe dei falsi incidenti, dei finti sinistri, in sintesi delle truffe alle compagnie di assicurazione. Cioè, secondo quello che racconta il Messaggero, il nuovo caso a Loreto Mare dopo i furbetti del cartellino è che gli investigatori ipotizzano un traffico di referti che vengono portati fuori dall'ospedale per truffare le assicurazioni. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Alessandro Milan, il Rossello Brescia dell'informazione. Allora, alle 7:34 minuti siamo qui. La politica. Beh, Renzi è tornato dalla California ed è andato subito, a che tempo che fa, da Fabio Fazio a parlare della scissione. Ha attaccato D'Alema, ha detto la scissione di Palazzo è ideata da lui. Era un disegno già scritto, come se D'Alema e i suoi amici non avessero mai mandato giù il rospo per avere perso. Questa è un po' la sintesi dell'intervista che trovate sul Corriere della Sera, pagina 5, Marco Galluzzo. Io mi sono dimesso, dice Renzi, ma da qui a dire che uno deve accettare il ricatto? No. Io dico a D'Alema, non scappare, accetta di candidarti, vieni, vediamo chi ha più voti. Poi parla anche di tensioni familiari, in qualche modo. Voleva addirittura lasciare la politica. Discussioni accese, mia moglie, i miei figli che devono accettare il fatto che hanno un papà che può perdere ma non può arrendersi. Ho perso una partita, ora cercherò di vincere la prossima. Non si può lasciare l'Italia nella palude. Questo Matteo Renzi. E poi a un certo punto Fazio gli chiede anche: Gentiloni può stare sereno? Evocando il famoso stai sereno su Enrico Letta. E visto che poi il governo cadde dopo pochi giorni, Renzi assicura che Paolo Gentiloni sarà artefice del suo destino. Le elezioni sono previste nel 2018, se Gentiloni vorrà votare prima lo deciderà lui e non altri. Questo ha detto Renzi, che ha parlato anche del piano di ridurre le tasse, insomma le promesse che i politici fanno sempre, e poi ha parlato del non tanto del reddito di cittadinanza, ma il lavoro di cittadinanza. Questa è una cosa curiosa. Tra l'altro il giornale va a recuperare chi aveva fatto il lavoro, aveva provato a fare il lavoro di cittadinanza, ed era Nichi Vendola in Puglia, nella sua ultima fase di governo della Puglia. L'idea è quella di cercare di ricollocare all'interno delle pubbliche amministrazioni del terzo settore chi svolge servizi per conto della pubblica amministrazione, coloro che percepiscono sussidi di disoccupazione, così da garantire un reddito minimo di 500 euro mensili a coloro che svolgono queste mansioni. In Italia, a fine dicembre, i disoccupati, secondo l'Istat, erano 3,1 milioni. Garantire loro almeno 6.000 euro l'anno tramite un'occupazione pubblica o parapubblica costerebbe come minimo 18,6 miliardi. Poi c'è il tema della protezione sociale. Insomma, il giornale è critico con Gian Maria De Francesco. Il titolo è questo: l'ultima renzata costa 25 miliardi. La renzata sarebbe appunto questo lavoro di cittadinanza per tutti. Questo per quel che riguarda la politica. Tra l'altro c'è un retroscena di Carmelo Lo Papa su Repubblica a raccontare di un Renzi che ha in mano una sorta di jolly sulla legge elettorale. Carmelo Lo Papa, voto nel 2018 decide Gentiloni, questo è il titolo. Ma il piano per la legge elettorale prevede questo: nella strategia dell'ex premier sarà il colpo d'acceleratore contro tutti gli attendisti che lavorano per le calende greche. In cosa consisterà questo piano? Il nostro punto di partenza resta il Mattarellum, mette le mani avanti il capogruppo alla Camera Rosato, ma se non dovesse incontrare un consenso sufficiente in Parlamento, non resteremo di certo senza legge elettorale. E fin d'ora è chiaro che punteremo sui due principi cardine, vale a dire collegi e premio di governabilità. Collegi e premio di coalizione è la carta segreta dell'ex premier per la nuova legge elettorale, appunto l'undicesima settimana decisiva per la legge elettorale. Staremo a vedere se ci sarà oppure no. Secondo Repubblica questo è un po' il trucco. Tra l'altro c'è l'altro grande tema, quello dei vitalizi, quello dei vitalizi che ritorna in primo piano. Ci sono, fa sapere il Messaggero, tra l'altro, 10 disegni di legge sui vitalizi. E sui vitalizi c'è anche il duello per abolirli. Di Battista del Movimento 5 Stelle dice votate con noi. Il PD dice, rispondendo, ci copiate la proposta. Questa in sintesi è il braccio di ferro in Parlamento che rischia di portare allo stallo. Racconta Alessandro Di Matteo a pagina 5 della Stampa, è un vero e proprio braccio di ferro tra Renzi e il Movimento 5 Stelle sulle pensioni dei parlamentari, proprio ciò che molti nel PD temevano e ancora adesso preferirebbero evitare. Il totem di tutti i privilegi, la pensione di deputati e senatori, potrebbe essere abbattuto, quantomeno rimaneggiato, se il PD e 5 Stelle faranno asse in ufficio di presidenza alla Camera. Matteo Richetti, che ha concordato la strategia con Renzi, ieri sulla Stampa rilanciava «Siamo pronti, vediamo se il Movimento 5 Stelle fa sul serio». Alessandro Di Battista replica «C'è chi non vuole votare perché aspetta il 15 settembre per maturare l'ennesimo privilegio, una grande pensione anticipata. Dai, caro Renzi, uno sguardo alla nostra proposta e di a quel che resta del tuo partito di votarla. Bastano 2 giorni di lavoro». E in questo gioco al rialzo di giocare a rimpiattino e dire fate come vogliamo noi, no, voi ci copiate, fate come vogliamo noi, dato di fatto che il rischio che non ci sia da fare, non si faccia nulla e poi questo 15 settembre scatti. Vabbè, ma si sa, sarà anche un argomento populista, però è un argomento che c'è. L'economia, assalto sul Giorno, il Giorno intervista del presidente di Confindustria, Boccia, che parla a 360 gradi contro il rischio stallo. L'inizio dell'articolo di Raffaele Marmo è questo: non ci resta molto tempo, dice Vincenzo Boccia, se vogliamo continuare a essere il secondo paese manifatturiero in Europa e uno dei primi 7 al mondo. Le posizioni acquisite non si mantengono per sempre se non siamo in grado di difenderle, anche perché gli altri paesi corrono più di noi. Questo è un po' il punto, cioè lo stallo, la rischio di semistagnazione. Occorre spingere le imprese che vanno bene a fare sempre meglio, risponde Boccia, aiutare quelle che arrancano ad agganciare il gruppo di testa. Dobbiamo perciò insistere sulle riforme, avendo chiaro che cosa possiamo fare nel breve e cosa possiamo e dobbiamo fare nel medio periodo. In economia come in politica non esiste contemporaneità tra causa e effetto. Quello che fai oggi lo vedi domani. Se il paese e parte delle sue industrie hanno reagito alla crisi è principalmente grazie alla qualità dei nostri imprenditori e dei nostri lavoratori. Poi sulle riforme nello specifico parla del Jobs Act e dice il presidente di Confindustria: volere smontare il Jobs Act al posto di completarne l'attuazione significa ignorare le condizioni in cui versa l'economia reale del paese, che è ancora molto indietro rispetto alla consistenza del 2008. Parlare di lavoro come se fosse sganciato, se non addirittura antitetico allo sviluppo, significa tornare a quella dimensione ideologica i cui effetti stiamo oggi pagando con il debito pubblico che abbiamo. Risponde anche una domanda sul lavoro di cittadinanza, Boccia, quello proposto da Renzi. Il governo Gentiloni, il governo Renzi e il partito di Renzi si sono caratterizzati attraverso riforme coraggiose che, non mi stancherò di ripetere, occorre non rallentare. L'ultima proposta bisogna capirla nel merito, ma è certamente un bene che si ricomincia a parlare di lavoro nel paese. Lavoro che però possiamo raggiungere in modo strutturale solo imboccando la strada della crescita e dell'innovazione. Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, intervistato a pagina 2 e 3 del Giorno. Io direi che è stata una domenica, oserei dire, perfetta dal punto di vista sportivo. Perfetta! Perfetta, mamma mia, perfetta. Caro Mauro Meazza, buongiorno, come stai? Buongiorno, buongiorno, benissimo, grazie, perché c'erano... Mi informo. Io per esempio ho la febbre. Infatti avevo appreso anche... Fino in fondo! ma non è vero, l'ha fatto ancora. Come non è vero? Non è vero, forse arriva un'altra busta adesso e ci dicono che c'è una cosa che è andata diversamente. Ho visto sui social, mi spiace per la tua salute, ti faccio i migliori auguri, questa volta sinceri, non di tipo calcistico. Bene, allora in questo andrei rigorosamente, l'avverbio non è scelto a caso, alla lettura degli endecasillabi del lunedì, caro. Perfetto. Alessandro Milan. Sempre rigorosamente, naturalmente. Rigorosamente, chiaro. Passano le stagioni, ma non passa la tentazione d'andare a litigare col fisco su quell'altra o questa tassa fino alla Cassazione, senza frenare. Così vedrai nello servizio odierno quanto sia poderoso l'arretrato, talché nel terzo grado è quasi eterno lo smaltimento del non giudicato. Anche d'Europa poi ti parla il sole, vuoi per l'industria, vuoi per le infrazioni, poiché non si può far ciò che si vuole se in direttiva ci sono le istruzioni. Medita, Lino mio, la circostanza di chi smarrì il lavoro a mezza età e gli riassunti non sono abbastanza, Francesca ossia Barbieri spiegherà. Ancora d'automobili e vestiti, di pagamenti e poi dell'e-commerce. In più l'esperto con i suoi quesiti nel sol 24 ore non va perso. Giungo così nell'ultimo commento e sarò rigoroso e paratattico. Oggi è bufera e fischia il tagliavento. Allora, rifugiamoci nel traffico! Gondrand Arte e Fiere, i professionisti per le vostre esposizioni. Scopri di più su gondrand.it. Vi presenta Milan, il cagnas randaggio dell'informazione. Beh, questo è uno dei migliori che abbiamo rispolverato. Allora, sempre per parlare di economia, Repubblica si concentra nuovamente su Alitalia, azienda che racconta Repubblica ieri. Scriveva: rischia il commissariamento, pronto il piano del governo. E allora ecco la puntata bis, se volete, rispetto all'articolo di ieri. All'Italia, un piano da 400 milioni di tagli, si guarda a Lufthansa. Pagina 13 di Repubblica, Filippo Santelli racconta una sforbiciata extra ai costi rispetto ai 160 milioni della prima versione. È aumentando la dose di tagli fino a 400 milioni a regime che da oggi l'amministratore delegato dell'Italia, Cramer Bowl, proverà a strappare ai soci l'ok al suo piano di rilancio della compagnia. Prima di tutto quello di Intesa San Paolo e Unicredit, azioniste creditrici, che devono garantire subito nuove vitali linee di finanziamento. In caso contrario, come anticipato da Repubblica, il governo ha pronto il piano B, il commissariamento. Con o senza Bowl al comando, insomma, il risanamento partirà. Ma che basti davvero a condurre all'utile all'Italia, piccolo vettore in un cielo di colossi, resta difficile. Accasarsi con uno di quei giganti nel medio periodo potrebbe rivelarsi necessario. Ecco allora che il vento sembra spingere verso la tedesca Lufthansa, con cui in questi mesi Etihad ha costruito un'alleanza sempre più solida. È una sorta di patto di emergenza, racconta Repubblica, perché la campagna di espansione in Europa tra il profondo rosso di Alitalia e quello dell'altra partecipata Air Berlin è già costata a Etihad circa 900 milioni di euro di perdite. La compagnia comunque scopre le carte, fa sapere Repubblica, per evitare il commissariamento si avvicina l'intesa tra Etihad e Lufthansa. Questo è lo scenario di Alitalia, staremo a vedere nei prossimi giorni. Mentre su tutti i giornali si racconta di un'accusa della Corte dei Conti invece su alcuni appalti strani, questo dice la Corte dei Conti, al Ministero degli Affari Esteri, cioè la Farnesina. Gare appalti anomali alla Farnesina. Leggo dal Corriere della Sera, Marco Galluzza, pagina 10. È il picco dell'iceberg quello segnalato dalla Procura dei Giudici Contabili. Il Ministero degli Affari Esteri ha bisogno di una fornitura per un servizio informatico, valore 113.000 euro. Fa partire una richiesta alle imprese con lettera d'invito del 7 aprile 2015, ma la scadenza per la presentazione dell'offerta viene fissata alle 10 del mattino di 3 giorni dopo, il 10 aprile, dunque solo 3 giorni. 7 imprese ricevono la lettera, e una sola presenta un progetto e vince. Le altre 6 o si ritirano o fanno presente che non sono in grado di fare un'offerta visti i tempi stretti. La Corte dei Conti mette nero su bianco che l'offerta riguardava la fornitura di un servizio complesso che non risultava alcuna urgenza, questo, su questo è d'accordo anche l'Autorità Nazionale Anticorruzione, ma il Ministero degli Affari Esteri tiene il punto e dice l'urgenza c'era e come. Un acquisto praticamente senza gara fatto in sole 72 ore, una sorta di record alla faccia degli appalti. E allora gare, appalti anomali alla Farnesina. Oggi il Corriere della Sera, ma anche Repubblica, dedica una pagina a questo. A proposito di estero, beh, intanto c'è sempre Donald Trump che di fatto ha disertato l'incontro con la stampa dicendo io non sono stato eletto grazie alla stampa, grazie alle TV, e quindi ha disertato proprio l'incontro con loro. Oggi Massimo Gaggi fa una interessante pagina, lettura a pagina 13 del Corriere della Sera, sotto il titolo «Ma cosa vuole il Presidente?». Cioè, qual è la linea esattamente di Donald Trump dopo le elezioni? Demolire lo Stato amministrativo, risponde Steve Bannon, il suo uomo ombra. Eccola qui una sorta di guida all'ideologia della Casa Bianca. Perché, scrive Massimo Gaggi, quello che abbiamo visto fin qui sembra il tentativo di sostituire l'attuale sistema liberale con un regime nazional populista. Formula generica per andare oltre la quale possiamo usare due bussole. La prima riguarda l'atteggiamento del presidente. I predecessori, forti del controllo del Parlamento, iniziavano il mandato moderando i toni della campagna, preparando leggi con le Camere. Trump invece ha scelto la strada insurrezionale dei decreti esecutivi presidenziali emanati a raffica e della destabilizzazione del sistema politico-amministrativo con scelte sempre più estreme. Il leader può accanirsi contro la stampa perché non trova ostacoli sul piano politico, democratici in crisi, repubblicani che non lo contestano. L'altra bussola è proprio Steve Bannon. Demonizzarlo per quanto in passato ha detto su razza, sesso, Islam è giustificato, ma non ci aiuta a capire quello che accade oggi. Steve Bannon è l'uomo ombra del presidente, tanto che qualcuno dice che è il vero presidente. E forse mentre le strade d'America si riempiono di manifesti che chiedono proprio l'impeachment del presidente Bannon, notate, bisogna mettere da parte l'immagine del perfido ideologo, del burattinaio che trama nell'ombra, un'immagine che lui stesso ha alimentato paragonandosi a Darth Vader. La chiave di lettura l'ha offerta lo stesso Bannon. Che sia o no un Rasputin, la sua centralità è emersa quando si è presentato sul palco insieme al capo di gabinetto Reince Priebus, l'uomo del partito che doveva bilanciare la sua presenza alla Casa Bianca, un intellettuale dinamico, spregiudicato, pieno di idee, contro un funzionario nervoso, incapace di articolare un pensiero originale. E però è interessante questa pagina, poi parla del populismo. Massimo Gaggi cerca di entrare un po' nell'ideologia della Casa Bianca, cercare di capire che cosa proprio frulla nella testa di Donald Trump. Se rimaniamo sempre all'estero, invece, vi segnalo in prima pagina e l'intervista poi a pagina 2-3, un'intervista sulla Libia al premier Fayez al-Sarraj, premier che noi riconosciamo. Al-Sarraj dice è decisivo il patto con l'Italia per cercare di frenare i trafficanti di uomini. Si parla dunque di migrazioni. Intervistato da Francesco Semprini, dice al-Sarraj, il memorandum siglato con l'Italia è un punto di svolta nella lotta all'immigrazione clandestina perché allarga il raggio d'azione dalle coste ai confini meridionali della Libia. Il memorandum pone l'accento sulla responsabilità allargata di tutti sul contrasto al traffico di esseri umani, Libia, Italia e Europa. Abbiamo chiesto al vostro paese di aiutarci a affrontare il problema valutando in particolare gli aspetti umanitari del problema. Sembrano queste le classiche interviste in cui si racconta va tutto bene, poi in realtà la situazione è molto molto complessa. Risponde al-Sarraj anche alla domanda sull'ISIS: è ancora un rischio per la Libia? È un rischio per tutto il mondo, risponde lui. Noi li abbiamo cacciati da Sirte, grazie al coraggio della nostra gente abbiamo pagato un prezzo enorme. Da quell'esperienza dobbiamo imparare. Alcuni sono scappati nel deserto, questo significa che siamo ancora in guerra con loro e lo saremo fino a quando non ce ne sarà più traccia in Libia. Così al-Sarraj. A proposito di ISIS, a proposito comunque di attentatori internazionali, il Corriere della Sera torna su una vecchia storia che riguarda Anis Amri, l'attentatore di Berlino, poi fuggito e ucciso da due poliziotti italiani a Sesto San Giovanni dopo un controllo di polizia, durante un controllo di polizia. Gianni Santucci racconta sul Corriere che nel cellulare di Anis Amri sono stati trovati vari numeri di italiani. 5 universitari hanno il suo numero, 3 giovani di Chieti e 2 di Palermo. E ovviamente sono stati sentiti dagli inquirenti: come mai avevate il numero di Anis Amri? E loro hanno dato una spiegazione anche abbastanza banale. Eravamo a Berlino, lui parlava bene italiano, era socievole e spacciava. E quindi da lui ci siamo riforniti. E lui tra l'altro parlava bene dell'Italia. Da voi al sud si sta bene, siete brava gente, ci accogliete. Questo è il racconto di 5 giovani che hanno spiegato il perché avessero il numero di telefono di Anis Amri registrato sul proprio telefonino. Ma siamo all'articolo più inutile scovato sui giornali, siamo alla Carta Costa, Sara Gandolfi, siamo sul Corriere della Sera. Il dibattito in Germania in realtà è molto profondo, è la sfida politica al buffet, perché hanno deciso di togliere i Würstel dal menù del governo. E allora, togliere i Würstel dal menù del governo in Germania, sì o no? Ma chi se ne frega!